9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, avete sentito oramai da oltre 24 ore sui giornali radio, avete letto sui giornali di ieri mattina, trovate oggi dovunque in apertura sui quotidiani di questa mattina gli echi che si sono infettiti dopo che ieri la Presidente di Confindustria ha deciso di replicare, di puntualizzare sul tema che era stato sollevato il giorno prima a Milano a un convegno organizzato dalla Banca Popolare di Milano alla presenza dei segretari delle tre confederazioni sindacali maggiori, CGIL, CISL e UIL, e il Ministro dell'Economia a un certo punto aveva detto io non credo che la variabilità del lavoro sia un valore. Credo che solo con il posto fisso sia possibile pianificare per dei giovani la famiglia che è un solido punto di riferimento per assicurare la coesione sociale. È noto che il Ministro dell'Economia abbia una visione molto critica nei confronti di quelli che lui chiama gli eccessi del neoliberismo, ha collegato l'idea che la variabilità del lavoro sia positiva, l'ha collegata alla globalizzazione, rispetto alla quale molte volte nei suoi libri, nelle sue dichiarazioni pubbliche ha puntualizzato che è avvenuta troppo presto e troppo poco regolamentata, di cui vasti echi di polemiche che sembravano essersi quasi attutiti dopo 24 ore, quando ieri Confindustria ha ritenuto per bocca del suo presidente di reagire dicendo si parla di stabilità del lavoro, Confindustria considera e le imprese dimostrano, poiché nel manifatturiero c'è la maggior percentuale di lavori con il contratto a tempo indeterminato, che per le imprese la stabilità è la stabilità del lavoro è un valore perché coincide con la stabilità dell'impresa. Detto tutto questo, se vogliamo invece dire, dice la Marcegaglia, che il posto fisso è una specie di bandiera, è un punto di riferimento, è una pietra miliare nell'elezione di un modello di società, allora è un ritorno al passato impossibile. E oggi trovate molti commenti sui giornali, io mi limito a riportarne solo alcuni per darvi un'idea della forbice, naturalmente, di commenti e opinioni che suscita il rilancio di questa questione, prima poi di presentarvi gli ospiti e di andare al merito sentendo le loro opinioni e naturalmente invitandovi a darci le vostre chiamando l'800 24 00 24. Allora, mentre vi sono quotidiani come La Stampa che oggi aprono con il titolo Il posto fisso è un valore e ci sono due commenti, uno di Federico Geremica, Due voci nel giro della steppa, che esordisce stavolta Giulio Tremonti, ha del tutto ragione, e nel seguito però si dà un'interpretazione politica delle ragioni per le quali Tremonti, la PDL, le diverse articolazioni della PDL possono essere alle prese attraverso anche questa polemica con il dopo Berlusconi. Ce n'è poi uno invece nel merito firmato dal professor Franco Bruni, Una nuova cultura della mobilità, in cui a un certo punto si dice che per discutere il significato economico della presa di posizione di Tremonti occorrerebbe sapere quale preciso contenuto programmatico la frase vuole avere, e dunque più facile prenderla come una provocazione culturale alle voci che stanno scegliendo questa strada, compresa quella giustamente contrariata e sorpresa di Emma Marcegaglia. Vorrei aggiungere due considerazioni, quindi Franco Bruni si schiera con la Marcegaglia. Poi richiamo anche i quotidiani della sinistra, a cui forse noi abitualmente siamo troppo poco attenti, e che naturalmente hanno una posizione di una certa a metà tra la sorpresa e la rabbiatura. Liberazione oggi apre per esempio con una fotografia presa da film The Untouchables, in cui sostituisce i volti dei protagonisti di quei film con quelli di Emma Marcegaglia, del ministro Sacconi, Pietro Ichino e Brunetta, e li chiama gli inflessibili. Sorpresa, Tremonti scopre dopo averne fatto scempio la virtù del posto fisso e bacchetta l'ideologia della flessibilità. Parole in libertà, perché tutta la politica dell'esecutivo è all'insegna della distrutturazione del mercato del lavoro, con un fondo firmato da Dino Greco, La conversione sospetta di Tremonti. Il Manifesto idem, una grande fotografia in prima pagina di giovani in attesa fuori un centro dell'impiego, in quel posto il titolo, precarietà della politica di Loris Campetti, vi leggo la prima frase: solo un cretino può pensare che il massimo desiderio di un operaio che lavora alla linea di montaggio, terzo livello metalmeccanico, salario di merda per un lavoro di merda, leggo testualmente, ipersfruttato ed alienante, un operaio a cui è tolto persino il diritto di esprimersi sul suo contratto, abbia come sogno di restare per tutta la vita inchiodato alla catena. L'Unità, stesso analogo meccanismo, fotografia con un giovane su una panchina in attesa al calare della sera, posto fisso, la didascalia, titolo del giornale, predicano bene dopo Tremonti, il premier Epifani, subito un tavolo, giro degli industriali, e razzolano male a bagare alla Camera sui precari della scuola, intervista a Tito Boeri. Tutto questo solo per dirvi che c'è una questione che riguarda il merito di ciò che ha detto Tremonti. Tremonti ieri ha precisato che in realtà lui, parlando al convegno della BPM, intendeva dire una cosa che per lui è ovvia, non intendeva sollevare una particolare polemica, semplicemente dire di fronte alle difficoltà della crisi, di fronte alle difficoltà di assicurare a chi è più giovane, a chi è più basso reddito, una prospettiva certa attraverso cui costruire in maniera più sicura, meno insicura la propria vita, la questione è quella, diceva lui, di dire che l'acqua calda è meglio dell'acqua fredda, oppure che l'aria calda è meglio dell'aria fredda. Come dire, ho detto un'ovvietà e non mi aspettavo di sollevare tutte queste polemiche. Il Presidente del Consiglio, fine del mio pistolotto iniziale, ieri nel pomeriggio ha detto che nelle polemiche che stavano montando dava pienamente ragione a Giulio Tremonti, ricordando che la stabilità del posto di lavoro e la coesione sociale è il primo obiettivo di tutti i provvedimenti del governo. Però naturalmente poi ha detto, naturalmente questo comprende anche, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, le partite IVA, i lavoratori autonomi, eccetera. Quindi diciamo una difesa ecumenica, una difesa che abbraccia anche il partito degli autonomi, che come è noto in Italia l'assicurazione sulla certezza del posto di lavoro non ce l'hanno e rischiano in proprio. Fine del pistolotto, andiamo agli ospiti per capire se dal loro punto di vista era una polemica, per così dire, proporzionata a quella che poi si è scatenata, oppure si è andati oltre, se davvero il ministro non voleva dire più che una ovvietà, per così dire, se c'è da leggerci qualcosa di politica che riguarda il futuro del centrodestra, magari oltre l'attuale configurazione, o se invece in realtà, colpiti dalla crisi, stiamo, come giusto, rivedendo anche alcune questioni a cui eravamo abituati, come quello del fatto che l'Italia ha bisogno di più flessibilità e magari di un welfare adeguato alla flessibilità da introdurre, non di una flessibilità da demonizzare. Ecco i nostri ospiti che vado a presentarvi. Sono collegati con noi il segretario generale della UIL, Luigi Angeletti. Buongiorno Angeletti. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Pietro Ichino, senatore del PD e giuslavorista, lo conosciamo, lo sentiamo spesso. Buongiorno Ichino. Buongiorno. E Giuliano Cazzola, che è vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera. Ecco, io inizio. Buongiorno. Buongiorno Cazzola. Angeletti, lei era presente, dell'impressione che ha avuto? Il ministro è andato oltre le sue intenzioni? Era una ovvietà? Sono polemiche eccessive? Oppure è il caso di fare una riflessione comunque? Secondo me non bisogna interpretare una persona che è in grado di spiegare da sola che cosa voleva dire. L'impressione che non ho ricavato io è esattamente quella che poi lui ha spiegato, cioè che ha detto una cosa ovvia, non un'ovvietà, una cosa ovvia di buon senso, che la stabilità del posto di lavoro per milioni di persone rappresenta anche la stabilità della loro prospettiva di vita e quindi una forte coesione sociale. Tutto ciò è stato messo, o questa è l'opinione che lui ha espresso, in discussione dalla velocità e dall'assenza di regole con le quali si è realizzata la globalizzazione e quindi ha sostenuto, adesso bisogna gestire quello che c'è, ma è ovvio che la flessibilità non è di per sé un valore. Il valore a cui tendere sarebbe la stabilità, ma per fortuna la flessibilità è stata in qualche modo regolata dalle leggi che si sono succedute in questi anni. Ecco, quindi io penso che effettivamente rispetto a queste cose che io considero di assoluto buonsenso, probabilmente la polemica o la discussione che si è poi sviluppata, francamente mi sembra un po' eccessiva. Oh, se dovessimo, siccome naturalmente nessuno può immaginare di dire che la precarietà è invece un valore, se dovessimo dal suo punto di vista tirare un bilancio della manutenzione necessaria delle diverse norme che negli anni hanno reso più flessibile il nostro mercato del lavoro, cominciata dalla legge Treu del 1997, che poi è stata modificata dalla legge Biagi nel 2004, quindi le diverse categorie nel tempo introdotte sul mercato del lavoro, il lavoro interinale, i collaboratori a progetto, i contratti a termine, le modalità in cui anche l'attuale governo però ha richiamato alcune di quelle tipologie proprio per evitare che venissero male applicate. Ma se dovesse dare un bilancio oggi, è necessario rimetterci mano perché ancora in quel corpo di norme c'è qualche cosa che può essere confuso con la precarietà, oppure si tratta semplicemente di attuare meglio nei rapporti all'interno delle imprese, sindacato, imprese, in maniera più bilaterale, ciò che è già stato fatto per evitare che quelle forme di flessibilità diventassero precarietà? Bisognerebbe aggiungere due cose. La prima è rendere più costoso, più oneroso il lavoro flessibile da quello, diciamo così, stabile. Cioè, in questo anche i sindacati hanno una qualche responsabilità, perché dovremmo introdurre delle norme per le quali chi ha un lavoro flessibile guadagna di più, a parità ovviamente di lavoro, guadagna un po' di più di quello che ha un contratto a tempo indeterminato. E l'altra norma, che ovviamente c'è ma è solo male applicata, molto male applicata, riguarda il problema di coloro che devono cambiare lavoro, cioè la cui azienda chiude e siccome non devono rimanere disoccupati, bisogna che abbiano una formazione, oltre che un sussidio adeguato, ma soprattutto una formazione che gli consenta di trovare abbastanza rapidamente un nuovo posto di lavoro. Su questo, purtroppo, su questi due punti c'è un grave ritardo, e l'assenza di questi due punti ha determinato da una parte l'abuso di quello che è il lavoro flessibile, e per cui è molto più conveniente di un lavoro stabile, e per questo le aziende tendono ad abusarne. Il secondo rende la minaccia della disoccupazione un rischio mortale per le persone nel nostro paese, perché la possibilità di trovare rapidamente un nuovo lavoro ovviamente adeguato è molto scarsa. Giuliano Cazzola, partiamo invece che dal giudizio generale sulla polemica, cui poi chiederò anche a lei, da quello che ha appena detto Angeletti. Questi due interventi di manutenzione, i due che ha citato Angeletti e magari altri a suo giudizio, quanto aiuterebbero a smorzare questa polemica? Oppure secondo lei ce n'è bisogno ma fino a un certo punto, ed è una polemica più ideologica che in realtà appropriata alla fotografia che viene ogni giorno dal mercato del lavoro? Guardi, io sono abbastanza d'accordo con le considerazioni che faceva Angeletti, tranne che su una, che è questo del far pagare di più il lavoro flessibile. Noi abbiamo un lavoro flessibile che, tra l'altro, poi non si può farlo pagare di più per legge. No, non è che il giorno in cui anche, diciamo, i lavoratori flessibili avranno un contratto di lavoro, avranno la possibilità di avere un potere contrattuale, a quel punto il rapporto si regolerà così. So che c'è un'idea di portare tutte le aliquote previdenziali al 33%. Io credo che il problema sia quello di diminuire le aliquote previdenziali, non di portare tutto il mondo del lavoro a destinare un terzo della propria retribuzione alla pensione. Noi dobbiamo tener conto che i lavoratori flessibili sono l'anello debole del sistema, e quindi diventa difficile sostenere appunto questa idea per cui il lavoro flessibile deve essere pagato di più. Io credo che ci basterebbe, oltre alle cose che ha detto Angeletti, di avere un sistema di ammortizzatori sociali che tuteli, diciamo, il lavoro e non più il posto. L'errore di Tremonti è quello di aver aggiunto l'aggettivo fisso al sostantivo posto, perché dà l'idea di impiego nella pubblica amministrazione, in un paese in cui l'87% dei dipendenti privati ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, no? Quindi questa idea del fisso è un'idea sovietica, no? Non a caso poi oggi tutto il putiferio sul precariato lo si fa nella pubblica amministrazione e nessuno dice una parola per i precari privati. Ma tornando a noi, io credo che ci vorrebbe anche un'altra piccola norma, che è la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ai ai ai. Perché è chiaro che per unificare il mercato del lavoro bisogna unificare anche la disciplina del licenziamento, della risoluzione del rapporto di lavoro. Io ho presentato un disegno di legge che ovviamente è sepolto e ignorato, che prevede un'estensione, diciamo, alle imprese di una norma che già oggi esiste per i lavoratori. Il lavoratore oggi a cui il giudice riconosce la reintegra nel posto di lavoro può rinunciare alla reintegra e avere un risarcimento economico pari a 15 mensilità. La mia norma, questo disegno di legge, che ovviamente, come dicevo, anche la maggioranza si guarda bene dal portare avanti, prevede che la stessa facoltà l'abbia anche l'azienda. Un'azienda condannata a reintegrare il lavoratore può, o fatti salvi ovviamente i licenziamenti discriminatori che ovviamente che devono essere salvaguardati in maniera assoluta, no? può però, ecco, liquidare una penale di cui pare 15 mensilità. Secondo me noi non possiamo parlare di posto fisso, di flessibilità, fino a quando abbiamo una situazione diversa per quanto riguarda la tutela del licenziamento. Io sono assolutamente convinto di questo. Quanto poi a Tremonti, io ho avuto modo anche di parlargli. Lui dice che ha detto una cosa ovvia, tra l'altro, che fa il paio col neocolbertismo, fa il paio col suo libro, fa il paio con le critiche che fa la globalizzazione. Però, insomma, io trovo un po' assurdo questo dibattito che si è sviluppato, cioè, in un paese in cui, dicevo prima, l'87% dei lavoratori dipendenti privati ha un contratto a tempo indeterminato e abbiamo un tasso di flessibilità che in buona sostanza è assolutamente analogo a quello che abbiamo in Europa, quello che hanno altri paesi europei. Senatore Chino, una tempesta in un bicchiere d'acqua, però è stato il ministro a dire posto fisso, non è che ce lo stiamo inventando noi, perché lei che dice? Certo, qualche volta si ha l'impressione che i nostri ministri preferiscano la battuta che conquista la prima pagina dei quotidiani ha un disegno un po' di lunga lena, coerente e radicato in un comportamento lineare sul piano dei fatti, perché come si può vedere una coerenza tra l'azione del governo che obiettivamente in questo anno e mezzo ha operato per allargare gli spazi al contratto a termine? Ora non voglio far perdere tempo agli ascoltatori, ma potrei citare almeno 4 norme che sono state emanate in questo anno e mezzo e che hanno questo orientamento, e poi l'elogio del posto fisso come modello migliore. Intendiamoci, ha ragione Tremonti se lui avesse inteso dire che la sicurezza della continuità del lavoro e del reddito è un bene della vita a cui tutti aspirano, ma questa è un'ovvietà e lui non può non sapere che per il modo in cui l'ha detto e anche per i termini che ha usato, quel che ha detto non è stato interpretato in questa maniera, è stato interpretato come un elogio di un sistema nel quale la sicurezza della continuità del lavoro e del reddito si garantisce efficacemente attraverso un legame più saldo, più protetto tra il lavoratore e l'azienda in cui lavora. Questo è il tema. Allora, se questo è il tema, io proprio sono in totale disaccordo con Tremonti, perché questo tipo di protezione, che è il tipo di protezione che noi ci siamo dati mezzo secolo fa in relazione a una situazione completamente diversa dal punto di vista proprio del sistema economico rispetto a quella attuale, è un modello di protezione che genera una metà di lavoratori protetti che riescono ad accedere, a entrare nella cittadella del posto fisso, e un'altra metà che invece porta tutta la flessibilità di cui il sistema ha bisogno. Tant'è vero che quando si pensa all'ipotesi di estendere questa protezione al di fuori della cittadella, tutti se ne ritraggono inorriditi, persino la CGIL non appoggiò il referendum di Bertinotti per estendere l'articolo 18 al di fuori dei suoi vecchi confini. Quindi di che cosa parliamo? Come diceva Cazzola, il problema, ma anche Angeletti, il problema è come ridisegnare un diritto del lavoro e un sistema di servizi nel mercato del lavoro che davvero garantiscano quel bene di cui parlavamo, cioè la sicurezza della continuità del reddito e anche del lavoro, ma non necessariamente in un posto fisso, perché il posto fisso qualcuno riuscirà a conquistarlo, ad averlo, avrà la fortuna di averlo, qualcun altro no, e a quel qualcun altro dobbiamo offrire qualche cos'altro, che è l'assistenza nel mercato del lavoro, un'assistenza moderna e universale nel mercato del lavoro. Un'ultima considerazione: Il posto fisso può essere una grossa fregatura anche per il lavoratore, nel senso che è noto che non sempre si trova il miglior abbinamento tra lavoro e azienda al primo colpo. Occorrono magari 2, 3, 4 passaggi diversi. Questi passaggi servono per il giovane lavoratore, soprattutto il più giovane, per trovare il luogo in cui il suo lavoro è meglio valorizzato. E non è detto che il giovane stesso lo sappia fin dall'inizio dove il suo lavoro certamente, è meglio valorizzato. Certamente. Allora, se abbiamo un mercato del lavoro, un tessuto produttivo vischioso, in cui al primo posto dove si capita si resta, diciamo, legati per la vita. Resti fregato a vita, per così dire. Quindi, però già mi pare che dopo questa prima mezz'ora alcuni punti di convergenza importanti li abbiamo. Da voci diverse, orientamenti diversi, anche schieramenti diversi in Parlamento, capo di un'importante confederazione. Certo, c'è chi dice, ha detto una cosa ovvia, alcuni possono dire un'ovvietà, però al di là di questo non è sottolineo della flessibilità che è figlio del precariato, la distinzione, l'anomalia, il dualismo intollerabile delle tutele è figlia dell'eccesso di tutele a una vecchia mentalità che le ha date in altri tempi, come giustamente diceva Ichino, lo statuto dei lavoratori solo agli ipertutelati. Quindi il problema non è quello di combattere la flessibilità, ma è quello di adeguare le tutele per consentire la stabilità dell'integrazione del reddito, delle norme di maggior flessibilità in entrata e in uscita a coloro che oggi non ce l'hanno per via dell'ipertutela. Non è poco avere convergenze di questo tipo, certo, se poi se ne occupassero davvero le persone serie, cioè quella minoranza da una parte e dall'altra, che poi in realtà il tempo e il modo in Parlamento di applicare queste cose su cui convergono e di definirle non riescono tanto a trovarle, magari perché si fa più polemica che cose. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando dell'ecopolemica delle dichiarazioni 2 giorni fa del ministro dell'economia Tremonti sul posto fisso e della risposta di Confindustria ieri. Tantissimi sms da parte vostra, la maggior parte dei quali lamenta, e ne do correttamente atto, che non c'è abbastanza voce in questa trasmissione a tutela del precariato, a tutela degli eccessi delle forme di flessibilità del mercato del lavoro, che rimangono applicati anni e anni e anni e arrivano a oltre 40-45 anni a essere oramai il continuum dell'esperienza di un'intera generazione di giovani. È vero, alcuni dicono, come dice Cazzola, saranno una percentuale paragonabile a quella degli altri paesi europei o addirittura inferiore. Sarà anche vero che solo il 69% degli impieghi flessibili è nei servizi e solo il 14% nell'industria, che quindi nella manifattura c'è più contratti a tempo indeterminato che altrove. Però tre generazioni di giovani oramai pagano questo, cioè pagano il fatto che la sintesi di molti è: voi dite che volete fare degli interventi in cui estendete la tutela a chi ha solo questi rapporti di lavoro, ma in realtà questi interventi non riuscite a farli. Sintesi estrema di tutti questi messaggi. Però c'è una vasta parte degli ascoltatori di Radio 24 che dice questa convergenza è una convergenza a parole, perché di fatto noi restiamo tagliati fuori dalla prospettiva di entrarci. Sarà per le tutele eccessive di chi c'è, ma intanto a noi chi ci pensa. Sentiamo anche alcune telefonate dirette. Intanto Eugenio da Salerno, prego Eugenio. Buongiorno a tutti, salve. Volevo dire, come avete già messo in luce, che la posizione di Tremonti non mi stupisce, perché è perfettamente in linea con quanto lui ha espresso nel suo ultimo libro, La paura e la speranza, una posizione più da destra sociale che da destra liberale ed economica, per dir così. Però certo stupisce nel quadro della politica complessiva del governo, perché non si capisce bene come si possano conciliare le posizioni del ministro dell'economia con una politica, per esempio, sui precari della scuola. Lascia perplessi, diciamo, appunto, la coerenza, la tenuta di queste posizioni così contrastanti e contrapposte. Però forse illumina il senso complessivo della politica del governo, che mi sembra più orientata sulla tecnica della copertura retorica di tutte le posizioni, quindi il privilegio della comunicazione. Non è tanto importante ciò che si fa, è importante ciò che si dice di fare o ciò che si dice semplicemente, perché in qualche modo copre tutte quante le posizioni ed è ciò che rimane, ciò che colpisce. Oggi su Repubblica, commento di Massimo Geni in prima pagina, la destra Zelig più o meno dice esattamente, con vasti esempi, diciamo, quello che dice lei. Ecco. Chiarissimo, la ringrazio molto di questo. Massimo da Monza, prego Massimo. Massimo, buongiorno. Ecco. Io, sì, sì, io volevo soltanto dire una cosa, cioè qua si sta andando in controtendenza su quello che dovrebbe essere la garanzia per i lavoratori. Cioè, un contratto a tempo determinato non ti garantisce nulla. Ora, capisco che non tutti possiamo avere il contratto a tempo indeterminato perché è difficile, i tempi sono critici, però voglio dire, se non puoi comprare neanche un motorino a rate se non hai un contratto a tempo determinato. Cioè, voglio portare una mia piccola esperienza, cioè quando mi sono sposato ho chiesto un prestito personale, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, la finanziaria ha preteso il garante, figuriamoci con uno a tempo indeterminato. Quindi come lei vai a comprare casa? In sostanza Tremonti ha ragione nel dire come si fa a pianificare una famiglia se non si ha un contratto a tempo indeterminato, lei dice. Ma ci mancherebbe altro, sì che ha ragione, ha totalmente ragione, e il ministro Brunetta che a volte ha delle linee un attimino giuste ma poi magari ha altre parole che non dovrebbe dire, cioè dovrebbe dare sicurezza, non insicurezza. La ringrazio molto, Giuseppe da Perugia, prego Giuseppe. Sì, buongiorno Giannino, grazie, è un piacere interloquire con lei e i suoi ospiti. Io, guardi, credo che il problema sia questo, che la mobilità lavorativa in Italia si accompagna ad una forte immobilità sociale. Cioè, oggi la gran parte dei precari è costretta ad una vita di migrazioni da un lavoro ad un altro a basso contenuto professionale, non accompagnato né da tutele né da formazione. Quindi ci troviamo con gli esempi che faceva lei di persone che a 40 anni hanno pochissime competenze, pochissime professionalità e sono costretti ad avere una prospettiva di vita lavorativa precaria. Quindi il problema vero è quello, che bisognerebbe accompagnare il lavoro mobile alle tutele, ad estendere le tutele ai lavoratori mobili e soprattutto formarli, perché altrimenti non si uscirà mai dal precariato. Questa è la mia sensazione. Grazie. Ancora Luca da Milano. Prego Luca. Buongiorno a tutti, ma io vado un po' controtendenza rispetto agli interventi di adesso, nel senso che c'è un grosso problema culturale secondo me e una grossa mistificazione. Il problema culturale è che il concetto di posto fisso, di tutele, siamo continuamente alla ricerca di tutele, di cose fisse in un mondo che evolve alla velocità della luce, che ha sempre avuto questa evoluzione veloce. Voglio dire, sul concetto di impermanenza, in Oriente ci hanno fatto una religione. Allora, bisogna riconoscere che la realtà è impermanente, che di certo non c'è nulla, e bisogna quindi essere pronti, essere in grado di affrontare questo continuo evolversi. Un esempio molto, molto, molto pragmatico. Nel momento in cui il soggetto economico azienda non ha la possibilità di avere il diritto all'utile fisso positivo, come fa a garantire i diritti ai suoi lavoratori? Nel momento in cui un'azienda non può garantire il rapporto fisso con i suoi clienti, come fa a garantire il rapporto fisso con i lavoratori? Luca, allora, da Milano, io la ringrazio perché lei ci richiama all'elementare dovere del fatto che perché si paghi la gente bisogna che ci sia qualcuno che crea utili e che quindi abbia organizzazione di impresa capace di rispondere all'elasticità della domanda. L'elasticità della domanda varia nel tempo a ritmi e con modalità a prescindere dalla crisi che l'ha fatta precipitare e cambiare e la sta ristrutturando in tutto il mondo, che però negli ultimi decenni, non dal tempo dell'ingresso della Cina nel WTO dal 2001, ma dai tempi della crisi petrolifera, dai tempi del dollaro volatile, dai tempi delle prezzi di materie prime volatili, coi tempi di variazione della domanda e ciò a cui quindi le imprese devono mettersi in condizione di rispondere modificando la propria offerta di processi, prodotti, schemi organizzativi, intensità di fattore umano applicato alla produzione, tutto questo procede con velocità molto maggiori da metà degli anni 70 in poi, ed è questo quello che rende necessaria l'organizzazione, la flessibilità nell'organizzazione del lavoro. La questione però ha una sua rilevanza nel dire sì, d'accordo, ma anche chi non volesse negare questa flessibilità, perché il mercato è cambiato a tempi migliori, l'impermanenza come dice lei, però le tutele qui non ci arrivano, e allora questo poi diventa un punto serio. Maria Grazia da Palermo, prego Maria Grazia. Dunque, io penso che il parlare di Tremonti confligge assolutamente con l'azione di questo governo, e vorrei parlare in particolare dei precari della scuola. Intanto il governo quest'anno ha lasciato a casa circa 100.000 persone, e creando assolutamente nessun allarme sociale, non ne parla nessuno, la cosa interessa solo noi, e hanno dato un'alternativa, cioè mettersi in coda in altre province. Io personalmente ho una figlia che abitava a Palermo, è sposata a Palermo, ha una casa a Palermo, in questo momento lavora a Bergamo. Credo che non sia assolutamente giusto dare questo tipo di alternative, darla per un anno, non stabilmente, per cui alla fine ci si sposta, pazienza, ma darle le alternative per un anno, e l'anno 21 non si sa. Quando chiude una fabbrica con 200 operai, tutti ritengono che si debba fare qualcosa, perché non è giusto, perché ognuno ha diritto al suo posto di lavoro. 100.000 persone sono nella condizione di mia figlia, e anche peggio, e lo Stato non fa nulla. Grazie, grazie Maria Grazia. E qui ci sarebbe però molte reazioni che si scatenano dagli ascoltatori. Già immediatamente, appena lei ha toccato il punto, i dipendenti privati ce l'hanno molto con i dipendenti pubblici, perché dicono, se li hanno assunti in eccesso negli anni prima e pretendono l'inamovibilità come i tanti già inamovibili, insomma discutiamone. Cazzola, che cosa si può rispondere a quello? Infatti vedi che poi questa storia del precariato va sempre a sbattere sulla pubblica amministrazione, perché in Italia c'è l'idea, no, che chi mette i suoi magnani di lombi su una sedia dietro una scrivania di una pubblica amministrazione, prima o poi ha qualche santo che provvede e si stabilizza. Oggi c'è tutta questa polemica, dato in Parlamento ieri invece abbiamo litigato, oggi pare che abbiamo trovato una linea di condotta, diciamo, più convergente sul decreto Gelmini. Però tutti parlano della scuola, nessuno dice che in Italia ogni 100 studenti ci sono 10,4 insegnanti. Allora non è che si possono creare dei posti solo per creare dei posti. A parte, non è vero che sono stati licenziati 100.000 insegnanti, non è stato rinnovato non sono stati dati rapporti di lavoro temporanei, precari, a qualche migliaio di insegnanti in più. Però noi abbiamo questo problema. In Italia, le posso portare dei dati molto precisi, gli alunni sono calati del 25%, poi negli ultimi tempi c'è una piccola ripresa dovuta agli immigrati, ai figli degli immigrati. Gli insegnanti invece sono passati da 732.000 nel 78 a 900.000 all'inizio degli anni 90 e oggi sono 850.000. Quindi siamo il paese che ha il più alto numero di insegnanti rispetto agli alunni in tutti gli ordini e gradi di scuola. Quindi se la scuola deve migliorare, non è che può migliorare soltanto assumendo insegnanti perché hanno fatto corsi di formazione, perché hanno lavorato nella scuola. Deve indubbiamente avere più risorse, anche se noi abbiamo... Sì, naturalmente più risorse, ma a volte alla qualità della formazione, perché se noi gli diamo più risorse, ma assorbite al 100% solo dallo stipendio degli insegnanti... Degli insegnanti, noi dovremmo pure risparmiare anche all'interno della scuola. No, non è che possiamo pensare che investire nella scuola vuol dire assumere più insegnanti quando ne abbiamo... abbiamo un insegnante ogni 10 alunni. Allora Cazzola si prende questa posizione sanamente impopolare, però numeri alla mano, io devo dire che sono d'accordo con lui. Ora un'interruzione sull'informazione stradale, attenzione che torniamo dopo con un collega, Massimo Sideri, che ha scritto un bellissimo libro Controcorrente, come salvarsi dal posto fisso, cari ragazzi. Eccoci in studio, stiamo nella parte terminale di questa riflessione dedicata oggi alle polemiche sulle dichiarazioni iniziali del Ministro dell'Economia sul posto fisso, poi la risposta del Confindustria ieri, se un valore non semplicemente come difesa della stabilità, ma se è un valore, dichiarazione di Emma Marcegaglia, allora è un ritorno al passato impossibile, perché in Italia ha generato il dualismo nel mercato del lavoro, la condizione di cui sono purtroppo prigionieri i precari, la cui difficoltà sono figlie dell'eccesso di tutela dato a chi è ipertutelato, ce l'ha detto anche Pietro Ichino. Resta il problema però che queste poi riforme tante volte promesse di estensione degli ammortizzatori, degli integratori, delle tutele in maniera più graduata e con una distinzione meno netta tra i tutelati e i meno tutelati, se ne parlano, ma non arrivano, e quindi poi ci sono tre generazioni di giovani che invece lamentano le conseguenze di avere prospettive di vita terrificantemente devastate. Ma sono gli unici ad avere questo problema? O forse anche chi al posto fisso ha qualche problema di inquadramento psicologico, di vita, di orizzonte un po' arido, per così dire? abbiamo, e ve lo ricordo, anche sottolineato una questione. L'Italia è il paese tra i paesi OCSE con il coefficiente di elasticità intergenerazionale più inefficace. Cosa significa? Significa che da noi, tranne che nel Regno Unito, rispetto a tutti gli altri paesi OCSE, è maggiore l'improbabilità di migliorare la propria posizione economica iniziale a seconda di quella di partenza, cioè di chi si è figli, in parole povere. Questo significa il coefficiente di elasticità: più elevato è, meno è mobile la società. Noi ce ne abbiamo uno che è pari a 0,48, quello del Regno Unito è pari a 0,50, per capirci nei paesi scandinavi è 0,17, cioè nei paesi scandinavi è 3 volte più facile che da noi iniziare la vita con un certo reddito e dopo 10 anni il successivo censimento essere passato a decine di reddito più elevato. Quindi il posto fisso, per esempio, in una società così, significherebbe rimanere a vita nella parte bassa, se si parte dalla parte bassa, ovviamente. Con Massimo Sideri, che è un giornalista del Corriere della Sera, che l'anno scorso ha scritto un libro molto interessante, che si intitola Come salvarsi dal posto fisso, io innanzitutto vi avviso, non è un paradossale, non è un provocatore l'autore, cioè non è fatto per prendere in giro e dire viva la precarietà, ma è fatto per aiutarci insieme a capire che anche nel posto fisso magari ci sono valori e problemi psicologici, orizzonti di relazioni umane un po' diverse da quelle che può immaginare chi, non avendolo, lo può postulare invece come l'obiettivo della propria vita. E così o non è così, Sideri? Quali sono i problemi di cui guardarsi dal posto fisso? Buongiorno a tutti. Sì, direi che così. È chiaro che se il dibattito, come giustamente è stato detto durante la trasmissione, è meglio il posto fisso rispetto alla precarietà, direi che non c'è nessun margine di errore, nessun margine di discussione. È chiaro che qualunque persona sana non può che convergere al posto fisso in Italia. Il punto qual è? Il mio libro... No, a me tocca difendere anche i matti come me che si fanno licenziare di volta in volta. Io sono diventato un libro professionista di me stesso perché ho finito i giornali da cui farmi assumere, ma prego, non tutti possono essere così matti. E questo potrebbe essere appunto un modello del mio libro. Il punto di partenza del libro è molto semplice: tutti noi convergiamo verso il posto fisso anche per questioni culturali in Italia. Anch'io ho fatto il mio percorso, quindi con anni di precariato, alla fine sono arrivato al mio contratto a tempo indeterminato che ancora ho in questo momento. Cosa vuol dire? Risolti tutti i problemi? No, perché amavo riconoscerlo, ma il posto fisso spesso è il capolinea dei sogni e delle aspettative che avevamo. In qualche maniera si baratta la sicurezza con la voglia di fare. Credo che se il tema viene affrontato da questo punto di vista possiamo senza paradossi pensare a un percorso che potrebbe iniziare, diciamo, che purtroppo inizia con il precariato, arriva a un contratto a tempo indeterminato, ma poi potrebbe avere anche altre evoluzioni. L'ho detto prima Angeletti e il punto credo che sia molto importante. Paradossalmente, anzi sembra un paradosso ma non lo è, chi è flessibile dovrebbe guadagnare di più. In qualche maniera credo che ci sia già un'offerta in realtà in certi settori, in certi segmenti della società di lavoro flessibile. Questo potrebbe aiutare a creare un certo dinamismo all'interno. No, naturalmente io ho l'obbligo di dire, la questione è come far lavorare di più, facendolo gravare di meno contributi, è l'opposto di quello che è stato fatto in questi anni, perché esatto. Per pressione convergente dei sindacati e per l'esigenza della politica di qualunque colore, devo dire la verità, di aumentare il gettito contributivo, l'idea che è stata perseguita per... disincentivare le forme di lavoro flessibile troppo precario è stato quello di alzarne il margine contributivo, cioè di renderlo più oneroso, perché il ragionamento è che le imprese tendono a utilizzare quei tipi di rapporti, spesso barando rispetto ai giustificativi previsti dalle leggi, per diminuire il costo del lavoro medio della propria base occupazionale. Allora la questione di farlo pagare di più, se è fatta aumentando i contributi, significa farlo pagare di meno al netto in Italia, quindi è la contraddizione della regola italiana che poi riesce a tradurre l'esatto opposto di quello che vuole prefiggersi. Sì, ma il problema del dibattito italiano è che ormai si utilizzano tutti i termini senza distinzioni, quindi siamo partiti dalla precarietà, mobilità, flessibilità e noi tendiamo giustamente a utilizzare questi termini come un solo termine. Ma perché? Perché in Italia non c'è nessuna possibilità. Abbiamo una serie A dei lavoratori a tempo indeterminato e una serie B dei lavoratori a tempo determinato più o meno precari. Non è questo l'unico panorama possibile, nel senso, per esempio, se pensiamo ai contratti dei dirigenti, in realtà già abbiamo una terza forma, no? Una forma in cui i dirigenti nel settore privato sono licenziabili, ma tendenzialmente non vengono pagati di più, anzi hanno accesso chiaramente a stipendi molto più alti, a benefit, e in qualche maniera nella psicologia del dirigente c'è, cioè, io rinuncio alla certezza del mio posto fisso, inteso come non come contratto a tempo indeterminato, ma come percorso in cui io non potrò mai essere licenziato da oggi alla e alla quindi pensione. Però in cambio più soldi e migliore trattamento, è ciò che esattamente i precari lamentano di invece di non avere. Sono flessibili ma con trattamenti peggiori e senza garanzie. Bene, siamo entrati nel merito oggi e la questione è però le riforme, se non le fanno, ciascuno continuerà a darsi ragione da solo, e questo purtroppo è l'amara mia conclusione. Nel ringraziare anche Enzo da Carbonia, che non abbiamo avuto tempo per mandare in ordine, ringrazio in regia Paolo Corleoni oggi e Alessandro Marco Tulli come sempre che mi dà una mano insostituibile. Nel darvi appuntamento a domani, la linea al Giornale Radio.